Palla Spicchi di Dario Ricci. Ben ritrovati, insieme a Pietro La Corte in regia e a Benedetta Acri in redazione per questa nuova puntata di Palla Spicchi. Beh, mancano appena due giornate alla fine della stagione regolare e oggi le big hanno preso paura, direi, perché hanno rischiato parecchio prima poi di arrivare alla vittoria, perché Varese, Sassari, Roma, Siena e Milano vincono le prime cinque della classifica, mentre alle 20:45 scendono in campo nello scontro diretto Reggio Emilia e Cantù, partita più stuzzicante della giornata, e rimane ancora virtualmente aperto il discorso ottavo posto per i playoff, perché Venezia sfiora l'impresa a Siena, sfiora il successo e poi alla fine perde 83-81 e non approfitta della caduta casalinga di Caserta nel derby toscano con Avellino. In caso di vittoria dei veneti il discorso sarebbe già chiuso. In realtà ora la Reyer rimane comunque fortemente in vantaggio, oltre che per i due punti anche per il saldo positivo nello scontro diretto. Insomma, manca la formalizzazione di questo ottavo posto, almeno di questo accesso ai playoff, ma insomma Caserta dovrebbe a questo punto inanellare una bella impresa, una duplice vittoria e una duplice sconfitta nelle ultime due gare da parte dei veneti. Risultati, allora, c'è a Roma che batte l'Enel Brindisi 88-82 nell'anticipo di mezzogiorno, Montepaschi Siena che supera l'Umana Reyer Venezia 83-81 e a 7 Emporio Armani Milano che vince senza faticar troppo contro l'Angelico Biella 85-67, l'Ocnoplast Bologna sconfitta in casa dal Banco di Sardegna Sassari 110-120, pensate, dopo un tempo supplementare, 88-92 la vittoria esterna della capolista, la Cimberio Varese, sul campo della Vanoli Cremona, vittoria esterna anche per la Scavolini Banca Marche Pesaro 108-94 nel derby marchigiano con la Sutor Montegranaro, derby campano che invece va alla Sidiga Savellino che vince in trasferta per 85-75 sul campo della Juve Caserta, e alle 20:45 fra pochissimo ormai in campo Trenkwalder Reggio Emilia Lenovo Cantù, per una classifica che vede Varese a quota 44, ormai certa del primo posto, Sassari 38, Roma 36, Siena e Milano a 34, Cantù e Reggio Emilia proprio impegnate nello scontro diretto appunto a quota 32, Venezia 28, ottava qualificata al momento per i playoff, Caserta 26, Avellino a 24, Cremona, Montegranaro e Brindisi a quota 22, Bologna e Pesaro a 18 e Biella ormai retrocessa a quota 12. Dicevamo del successo di Avellino a Caserta, e allora andiamo subito dal nostro Carmelo Prestisimone. Ben trovato Carmelo, buonasera. Sì Dario, buonasera. Un derby purtroppo finito molto male, non parlo dell'aspetto sportivo, Avellino ha battuto, lo dicevi tu, Caserta qui al Palamaggiò 85-75, ma purtroppo dobbiamo documentare scene assurde registrate a fine partita. Sì, Caserta ovviamente doveva vincere per sperare ancora nei playoff e ancora aritmeticamente alla caccia di questo traguardo, e alla fine è successo appunto che ci sono state appunto grandi contestazioni verso l'arbitraggio. Pino Sacripanti, l'allenatore, è stato espulso appunto per uno scontro verbale con Taurino, un addetto alla sicurezza qui al Palamaggiò ha minacciato di morte il presidente di Avellino San Pietro, con tutta la dirigenza irpina che è rimasta bloccata per un quarto d'ora, 20 minuti buoni negli spogliatoi. Io sono con il coach di Avellino, Cesare Pancotto, che ha traghettato la Sidigas, insomma, innanzitutto a un traguardo importante come la salvezza e anche a questa soddisfazione nel derby. Cesare Coach, insomma, però queste scene che abbiamo visto alla fine veramente, veramente brutte. Guarda, tutto quello che lo sport è una cosa molto pulita e molto bella. Chiaramente quando succedono questi fatti non si parla più di sport, per cui commentarli è già brutto, perché si fa della pubblicità. Stigmatizziamo tutti i cattivi comportamenti che non permettono invece di dar valore ad un evento sportivo che è stato quello in mezzo a campo tra due squadre che lealmente hanno cercato di ottenere la vittoria. Oggi noi abbiamo fatto una partita migliore di Caserta, che è un'ottima squadra e sta facendo un grande campionato, ma abbiamo fatto una grande partita e siamo riusciti a vincere. Ecco, coach, Avellino è ancora in corsa per i playoff. Domenica c'è Venezia al Pala del Mauro, poi si va a Pesaro. Insomma, la speranza, il lumicino della speranza è ancora acceso. A me piace invece pensare e dire che stiamo allungando un campionato che sembrava chiuso nel girone d'andata. Stiamo regalandoci e regalando soddisfazione. Oggi questa partita la dedichiamo ai tifosi, perché sapete che il derby è una partita da dedicare ai tifosi. Siamo molto concentrati sulla partita prossima, non perché abbiamo un obiettivo a lungo termine. Il nostro obiettivo è quello di focalizzare la partita con Venezia e cercare di giocare ancora meglio della partita che abbiamo fatto oggi. Ecco, qualche cifra. Dario Ivanov, il solito centro bulgaro di Avellino, con una doppia-doppia, 20 punti e ben 12 rimbalzi, 3 su 7 da 2, 3 su 4 da 3, quindi bravo anche nelle triple. E poi il solito campione sloveno Jaka Lakovic, 26 punti, 3 su 5 da 2, 3 su 4 da 3. Cesare. Ma aggiungi 5 in doppia cifra, sono stati migliori in tutto meno che nelle palle perse, quindi vuol dire che abbiamo saputo gestire la partita dall'inizio alla fine, sapendo delle difficoltà e dell'impatto che si ha quando c'è un derby. Abbiamo saputo resistere ai vari attacchi di una squadra che gioca bene, che meritatamente c'è sopra in classifica, però abbiamo saputo anche approfittare del momento in cui abbiamo costruito con la difesa il break. Volevamo quel tipo di partita, ci siamo preparati, siamo riusciti a fare. Dario, se hai domande. No, benissimo, benissimo Carmelo, complimenti al coach. Grazie a voi. E quindi domenica prossima, in qualche modo, vincendo per sé, potrebbe anche fare un favore a Caserta, tenendo aperta la corsa a tre verso i playoff. E grazie Carmelo per aver documentato soprattutto questo fine partita davvero da censurare. Speriamo che poi intervengano gli organi preposti. Dicevamo di Venezia, Massimo Sollazzini, andiamo subito a Siena, una Venezia che quasi fa il colpaccio, in casa Montepaschi. Beh sì, a un certo punto la partita è sembrata saldamente nelle mani dei veneti. Nel terzo quarto ne avevano 15 di lunghezze a favore, dopo un secondo condotto con un parziale di 10-0. Beh, alla fine la rincorsa di Siena ha premiato, ma più di tutto è sembrato essere stato merito del cuore, oltre che di un Bobby Brown tornato a livelli abbastanza importanti. L'ultimo canestro, quello della vittoria a 4 secondi dalla fine, i suoi 22 punti all'attivo. Non è il miglior marcatore, perché dall'altra parte Kiedren Clark ne ha messi a segno 24 e, rientrando dopo lo stop che l'aveva tenuto fermo anche domenica scorsa, è sembrato mettere in mostra una forma molto importante, che però col passare dei minuti è andata scemando, e forse Venezia ha pagato dazio in termini anche di lucidità mentale, di voglia di crederci in questa vittoria esterna, che invece Siena ha dimostrato di volere fortemente, ma ne ha messo veramente molta di fatica in campo. Una pennellata sulla prova di Delonte Christmas, che lo stiamo seguendo da un paio di domeniche, perché è l'aggiunta senese in chiave playoff. Delonte Christmas in realtà si è visto bene all'inizio, dopodiché è sostanzialmente sparito, ha un 14 minuti di minutaggio, ha un 2 su 2 da due punti, un tiro su tre dalla lunga, e ripeto, col passare del tempo, soprattutto nei minuti che contavano della partita, non era in campo, e quindi sinceramente il suo apporto è ancora molto da percepire. Viceversa, non è una partita starting five Daniel Hackett, che lui sì, nel quarto, pur se non privo di errori, però ha dimostrato di essere uno di quelli che voleva mettere il cuore oltre l'ostacolo, e alla fine questa sera almeno lui ed altri giocatori guidati da Coach Banchi sono stati premiati. Grazie a Massimo Sollazzini. Andiamo subito a Milano dal nostro Roberto Nardella, perché Milano liquida facilmente l'Angelico Biella, ma Roberto, buonasera, ti chiedo subito come è andato questo nuovo innesto, Pap Mensah Bonsu, il verticalista che mancava all'Emporio A7 Milano. Ciao Roberto. E allora, buonasera a tutti gli amici di R24, anche qui dal forum 85-67. Come ricordavate voi dallo studio, mi chiedevano di Mensah Bonsu, della sua prima in maglia Olimpia Milano, maglia verde peraltro dell'Olimpia Milano, per celebrare l'Earth Day nella serata odierna. Io rilancio la domanda al collega della Gazzetta dello Sport, Pietro Scibetta, un commento su questo esordio dell'ex giocatore di Treviso che ora veste la maglia di Milano. Sicuramente un esordio positivo dal punto di vista dell'atteggiamento, non credo che si potesse chiedere molto di più dopo due allenamenti. Positivo il fatto che numericamente abbia chiuso con un rendimento da 7 punti e 9 rimbalzi in 19 minuti. È chiaro che bisogna aspettarsi da lui cose importanti dal punto di vista della presenza fisica e dell'intensità, ma con impegni avversari più importanti di questa biella retrocessa che oggettivamente non ha opposto resistenza. Forse gli avversari più importanti per Milano arriveranno proprio la settimana prossima nella sfida di Cantù Chiave, anche per discorsi di griglia playoff. Chiaramente sì, anche perché Milano è attesa a dare delle risposte dopo la prova di Varese in cui praticamente è stata spazzata via. Non si può permettere le assette, al di là del punteggio della vittoria e della sconfitta, un'altra prova così passiva a Cantù, dove certamente la squadra di coach Trinchieri vorrà fare di tutto per portarsi a casa un 2-0 nei confronti diretti. E allora ringraziamo il collega della perfetto Gazzetta, perfetto Roberta, grazie a Roberto Nardella e grazie anche a Pietro Scibetta, perfetto il collegamento che ci ha dato una foto di quella che era la novità in casa Milano. Qualche secondo da dedicare alla capolista Varese che passa a Cremona, dicevamo, per 92-88. Nel tabellino spiccano i 23 punti di Banks, i 19 con 21 di valutazione di Mike Green, 16 per Dustin più 13 rimbalzi, quindi doppia doppia, 15 per Ere. Per quanto riguarda Cremona invece 25 punti di Jarus Jackson, 22 per Luca Vitali con 29 di valutazione, continua il suo splendido campionato, 18 per Peric. Palla spicchi. E palla 2 mi viene da dire vicinissima tra Reggio Emilia e Cantù. Intanto saluto Stefano Valenti, ben trovato Stefano. Ciao, buonasera a voi. Beh Stefano, ti sei visto un bel, aspetta, 110 più 120, 230 punti tra Bologna e Sassari. Alla fine hanno avuto la meglio i sardi, però insomma non è stato certo il festival della difesa, eh? No, tutt'altro. Sassari ha provato a riaprire la corsa al suo secondo posto, sì. Non c'è riuscito. Mancava l'autocanestro forse. Sì, mancava l'autocanestro. Non ha perso perché sull'ultimo possesso dei regolamentari Drew Gordon è stato protagonista di una grande stoppata su Pullen che andava al layup della vittoria. Si è andato poi appunto al supplementare sul 102 pari, nel quale Drake Diner è tornato a essere Mandrake, l'uomo che chiude le partite, ha segnato 10 punti, è stato lui che ha dato il vantaggio poi decisivo per la Dinamo, che poi ha avuto 30 punti da Thornton. E dicevo Drew Gordon, che anche stasera ha ribadito di essere un giocatore interessante per i playoff di Sassari, 19 punti, 11 rimbalzi e 3 stoppate. E dall'altra parte Bologna, che ha sempre manda in tribuna il suo americano Steven Smith e non ha più Hasbrook, pure se il tribunale FIBA ha dato ragione ai bolognesi, e ha mandato in campo i suoi ragazzi, ma in realtà il miglior ragazzo è stato Pullen, che ha segnato 38 punti, ma bene anche Gigli, Poeta. Insomma, come dicevi te, ci si è divertito, grande percentuale di tiro, alla fine tutti contenti, Bologna diciamo eroica per la voglia di lottare, ma al tempo stesso penultima in classifica. Ecco, ti chiedo anche a te un rapidissimo profilo della prova di Sani Becirovic, l'altro grande innesto del roster sassarese in vista dei playoff, uno che a Bologna di fatto un paio di paginette di storia l'ha scritte, cifre deludenti. Che Becirovic hai visto? Ma guarda, Sacchetti nel pre-partita mi ha parlato che Sani si è calato in punta di piedi in questa squadra, non gioca una partita vera da un mese, ha ancora 2 settimane di tempo per calarsi nuovamente nella realtà italiana. Sicuramente Sassari ha bisogno di lui nei playoff per dare un po' di fiato a Travis Diner, che è uno che non vorrebbe mai uscire dal campo. Si tratterà di trovare un nuovo equilibrio, perché è chiaro che Diner ha visto in allenamento Becirovic, che non conosce perché non sapeva neanche chi fosse, gli è stato un po' spiegato. Speriamo che sia una coabitazione di successo per Sassari e che in realtà non crei qualche problema, ma non credo, perché poi tra persone intelligenti ci si trova. Non giudichiamo l'ora, noi Becirovic lo conosciamo, aspettiamo i playoff. Assolutamente sì, sfida interessante anche questa per Meo Sacchetti. Grazie Stefano e ben trovato a Piero Bucchi, coach Bucchi. Buonasera coach, grazie per essere nostro ospite. Oggi ci avete provato a fare lo scherzetto a Roma, Roma che terza insidia il secondo posto di Sassari, Roma 36, Sassari 38. Oggi insomma innanzitutto complimenti per la salvezza, che non era risultato alla vigilia del campionato così scontato, e poi qualche soddisfazione ve la siete pur tolta, coach? Sì. Sì, devo dire che abbiamo centrato l'obiettivo principale, che era la salvezza, e con soddisfazione prendiamo questo risultato, anche perché è la prima volta per il Brindisi. Quindi l'obiettivo era, quando l'anno scorso andai dalla Lega 2 fu chiamato, il tentativo era di riportare Brindisi in Serie A e di consolidarla nel massimo campionato, ci siamo riusciti. Questo ci dà soddisfazione perché, ripeto, Brindisi due volte aveva fatto in passato la Lega, ma era sempre retrocessa. Ci siamo tolti qualche altra soddisfazione durante l'anno andando alla Final Eight di Coppa Italia, come dicevi tu giustamente, e poi abbiamo avuto un periodo un po' più difficile dovuto al fatto che forse i ragazzi pensavano che fosse un cammino in discesa, qualche ragazzo americano un po' ingenuamente ha sottovalutato la seconda parte del campionato, che invece, ecco, coach, ma sempre... c'è qualche rimpianto in merito al fatto che tutto sommato a un certo punto quei playoff sembrano effettivamente a portata di mano? Ma un minimo sì, anche perché la squadra oggi ha dimostrato che quando gioca a viso aperto, come abbiamo fatto oggi, effettivamente credo che abbiamo dato prova di poter fare buona pallacanestro, anche insediando appunto Roma a casa loro, che in questo momento è la terza forza del campionato. Noi abbiamo avuto un calo nei due americani, in Gibson e in Reynolds, per un mese e mezzo, per motivi diversi, e ovviamente la nostra squadra, che è formata da 5 americani e 5 italiani, ne risente se due americani, che sono il motore della squadra, hanno un momento di calo. Oggi loro hanno dimostrato che quando sono un po' in condizione, quando sono in forma, possiamo dare fastidio a tutti quanti. Purtroppo così il playoff è sfuggito, però credo che sia importante rimarcare, come dicevi tu giustamente all'inizio, il piazzamento e la conferma nella massima serie di Brindisi. Ecco, su che basi si imposta la prossima stagione? Perché siete una delle realtà più dinamiche del Sud e anche per alcuni aspetti tra quelle solide del campionato sotto il punto di vista economico-finanziario, laddove molti invece queste certezze non l'hanno. Beh sì, diciamo che la crisi la sentono tutti, anche giù ovviamente non è così semplice, però c'è solidità, nel senso che alle spalle abbiamo uno sponsor importante come l'Ener, e questo ci dà sicurezza, però è chiaro che c'è crisi un po' in tutti i campi, quindi di conseguenza anche nello sport, però fortunatamente, ripeto, abbiamo alle spalle il colosso Ener che ci dà sostegno, e questo ci permette di fare pallacanestro a un ottimo livello a Brindisi, e per essere una piccola città appunto del sud è un grande risultato già il fatto di essere per il secondo anno in A1. Abbiamo confermato Simmons, che è il nostro pivot americano di quest'anno, e quindi per cercare di dare continuità al lavoro abbiamo un paio di ragazzi che sono zerini formenti sotto contratto, quindi i primi piccoli mattoni sono stati messi, salvandoci adesso tra due settimane finisce il campionato, abbiamo tempo di programmare, di organizzare il lavoro per estate per cercare di fare la squadra più competitiva possibile. E allora, coach Buchi, il resto ce lo metterà lei, e questa è garanzia di qualità. Grazie per essere stato nostro ospite questa sera qui a Pallaspicchi. Grazie a coach Buchi. Carlo Genta, ben ritrovato. Ciao Dario, buonasera a tutti. Appuntamento con te domani da ore 14, come sempre, tutti convocati. Ti chiedo, Carlo, si parlerà chiaramente anche di basket, ti chiedo subito un parere su queste grandi manovre delle corazzate, ognuna che porta a casa il rinforzino, rinforzone in chiave dei playoff. Quale può essere l'impatto, al di là dei singoli casi, però... Si vanno a fare innesti in un momento sicuramente delicato, perché il tempo poi per inserire questi giocatori è quello che è, poco. Sì, questo è normale, però non mi sembra che sia questione di un giocatore in più, di un giocatore in meno, ci sono stati anche degli infortuni, eccetera. Il fatto è che le corazzate mi sembra che ancora stentino, basta guardare insomma il risultato di Siena contro Venezia, vinta al photo finish, oggi Milano ha vinto in maniera più semplice con Biella, che è da tempo ultimo in classifica. Insomma, io non credo che sia un giocatore, per quanto valido, per quanto forte, in grado di risolvere i problemi di queste squadre. Abbiamo già detto molte volte, sarà un playoff estremamente incerto, l'unica cosa sicura è che Varese, Sassari e Roma giocano la pallacanestro migliore, poi vediamo, non dimentichiamo che saranno serie lunghissime, anche troppo lunghe, almeno delle 7 partite, questa l'ho detto molte volte, anche di recente mi sembra una follia per come è ora il campionato italiano. quindi assolutamente, insomma, ci dobbiamo preparare quantomeno all'inizio. È uno spettacolo, non è detto che sia all'altezza delle aspettative, Carlo. Infatti. Allora, Carlo, intanto grazie, appuntamento domani alle 14 con tutti i convocati. Abbiamo giusto un paio di minuti per uno sguardo oltreoceano, perché i playoff che sono scattati, sì, quelli dell'NBA. E allora, ben trovato a Flavio Tranquillo. Buonasera. Carissimo Flavio, intanto Indiana è in vantaggio 81-67 in gara 1 con Atlanta, quando mancano due minuti alla fine del terzo periodo. Beh, abbiamo già visto qualche gara 1, cosa ti ha colpito, Flavio? Molto bella Denver Golden State, partita ad alto ritmo, ma non fatta di superficialità e corse, ma di attacchi molto molto puntuti. Boston, New York comunque ha tanta tradizione, anche se i Celtics sono ridotti all'osso come rotazione e come condizioni psicofisiche, e adesso aspettiamo tutti tra un'ora o quello che è di vedere Lakers-Spurs, perché quella potrebbe essere la serie fascinosa di primo turno. Intanto non mi aspettavo anche questo capo così netto di Chicago contro Brooklyn, no? 106-89, Bulls che confermano le fatiche di una stagione che tra infortuni e incertezze è più complicata del previsto, è stata più complicata del previsto. Non me lo aspettavo neanche io in queste proporzioni, non mi aspettavo che Deron Williams stesse così bene, invece Deron Williams sta proprio molto bene, vedi anche la schiacciata rovesciata per esempio nel finale. Sono interessanti i Nets con questo Deron Williams, non credo proprio per andare fino in fondo, però sono interessanti. Davvero, e allora Flavio, grazie per essere stato con noi anche questa domenica, chiaramente ti ritroviamo perché sei tu il nostro Caronte nell'inferno dei playoff NBA e non solo. Grazie ancora Flavio, grazie a Pietro Lacorte in regia, grazie a Benedetta Acri in redazione. Un ultimo aggiornamento che arriva da Reggio Emilia, ma metà del primo quarto, Reggio Emilia 11, Cantù 12, quindi partita più che mai aperta. Io intanto mi fermo qui, però rimango a farvi compagnia con tutto lo sport della sera, della domenica sera di Radio 24. Un saluto da Dario Ricci.